L'altra cosa che mi ha colpito in questo romanzo è quando tu descrivi il tuo corpo in completa balia degli altri, perché ovviamente hai bisogno per tutto, per le cose quotidiane, per qualsiasi cosa hai bisogno degli altri. Come hai vissuto questo stacco da ragazzo indipendente che girava il mondo, eccetera, a doversi consegnare nelle mani di chiunque all'inizio? Guarda, mi ha aiutato il mio totale assenza di senso del pudore, perché mi deriva da essere un fricchettone, quindi io se potevo stare nudo in qualsiasi situazione mi mettevo nudo, quindi il problema della nudità, insomma della privacy, non è che mi ha... Certo, la privacy di un disabile non esiste in realtà, perché non si è capito perché, ma quando uno diventa disabile automaticamente tutti possono venire a vedere mentre tu stai sul water a fare i cavoli tuoi, oppure se fai pipì, insomma è come se io entrassi dentro il bagno e mia sorella si cambia, insomma, il Tampax su la doccia, io sto lì in bagno a guardarla, non si capisce perché noi perdiamo completamente, dobbiamo combattere poi per riaverla. Però sì, non ti nascondo che all'inizio è stato molto difficile. Un conto è quando sei in ospedale, sono gli infermieri, quelli sono preposti a farlo, quindi non ti dà tanto fastidio perché lo sai che è così. Il problema è poi invece all'inizio, quando torni a casa, che sono i familiari che ti devono aiutare almeno all'inizio, finché tu non acquisti la tua indipendenza, non, nel caso mio non, vabbè, non ti ricostruisci un po', no? La personalità che avevi, perché lì è un problema di perdere completamente il ricordo della tua personalità, quindi tu sei un niente e devi ricostruire quello che eri, però ci metti un po'. E nel romanzo Apnea tu finalmente, insomma, c'è qualcuno che ha il coraggio di affrontare anche la questione del sesso del disabile, perché insomma il disabile non è un essere asessuato come si potrebbe pensare, e nessuno, soprattutto in Italia, ha questo coraggio. Che cosa rappresenta il sesso per te e come hai vissuto le prime esperienze sessuali dopo l'incidente? Il sesso è importante per tutti allo stesso modo, nel senso che le pulsioni sessuali le abbiamo tutti, no? Normali e non normali. Quindi sfatiamolo questo tabù, che poi il disabile è l'angioletto puro che poi può fare a meno di tutto. Perché no? Perché è una parte molto importante della mia vita. È chiaro che ho dovuto imparare un nuovo tipo di approccio sessuale, nel senso che prima chiaramente da maschietto siamo molto fisici, no? E invece poi impari l'amore mentale, nel senso, io non ho sensibilità, ma ti assicuro che, e non provo orgasmi, quindi, ma ti assicuro che ne provo di forti allo stesso modo come li provavo prima, mentalmente, nel senso provando piacere nel piacere del partner. E quindi, guarda, anzi, questa cosa, ho dichiarato questa cosa e ovviamente le donne proprio non ne vedevano l'ora di sentire un uomo che parlasse di amore mentale. Infatti io sono veramente anche piacevolmente circondato da... Cioè dopo l'incidente, insomma, hai creato molta attenzione, sì, attrazione. Sì. No, ma dopo, io devo dire che in quel senso è cambiato poco. Insomma, io ho avuto vita facile prima dell'incidente e vita facile anche dopo, devo dire, perché ho capito un po' la curiosità, no? Delle donne. Non ti dico dopo l'uscita del libro, chiaramente... È stato un delirio, ma che continua tuttora, insomma, la mia bacheca di Facebook, sono il 90% sono amiche donne. E non ti dico che si propongono. Sì, ma arrivano dei messaggi molto espliciti a volte, anche divertenti. Grazie a Lorenzo Murri, ora in libreria con Apnea, pubblicato da Fandango. Trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.